La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Dr. Frankenstein? Frankenstein. Vuol prendermi in giro? No, si pronuncia Frankenstein. Allora dice anche Frederick? No, Frederick. Beh, perché non è Frederick Frankenstein? Non lo è Frederick Frankenstein. Capisco. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. Ebbene, non potevamo che cominciare così questa puntata della Rosa Purpura con l'omaggio a Gene Wilder, che questa settimana ci ha lasciato, e con i cuori infranti davvero di milioni di cinefili in tutto il mondo, perché Gene Wilder è stata la leggerezza, la classe, ma anche la simpatia e il divertimento che hanno fatto delle sue apparizioni nel cinema e nei film sempre qualcosa di unico. C'è chi appunto lo vuole ricordare principalmente in questo Frankenstein Junior, probabilmente il film iconico che lo ha reso come dire riconoscibile e indimenticabile al pubblico. C'è chi lo ricorda in Willy Wonka, La fabbrica del cioccolato, però poi c'è tutta l'epopea con Mel Brooks, di cui era sicuramente l'attore feticcio. Ci sono Mezzogiorno e mezzo di fuoco, c'è Non guardarmi non ti sento, insomma un attore che rendeva singolare, particolare, alla Gene Wilder, ecco, alla Gene Wilder ogni film che interpretava. La Rosa Purpurea, il settimanale di cinema di Radio 24, comincia da qui e comincia con il saluto di Franco D'Assisi ovviamente, ma anche con il collegamento con Venezia, dove c'è per noi Boris Sollazzo. Ciao Boris! Ciao Franco, ciao a tutti gli ascoltatori. Perché nel frattempo ovviamente è partito anche il Festival di Venezia, avremo modo di parlarne durante questa trasmissione. Boris, ti manca un po' Gene Wilder? Mi manca parecchio. Hai citato Non guardarmi non ti sento, che forse non è il suo capolavoro, però per chi ha la mia età è stato l'approccio a una commedia diversa, una commedia statunitense che si divertiva ad essere anche politicamente scorretta, con l'handicap, con il sesso. E aveva trovato, secondo me, con Richard Pryor un'alchimia straordinaria. E mi manca perché era un po' il Peter Sellers della commedia demenziale, cioè riusciva già solo con le sue espressioni, con la sua mimica, con la sua faccia, a metà tra Joker e il Mago Calbusera, per intenderci, a dare una cifra stilistica, una firma ai suoi film. Era speciale, ma speciale anche per quello che faceva. Pochi sanno che se abbiamo avuto Marty Feldman in Frankenstein Junior è merito suo, perché stavano già lavorando a Mezzogiorno e mezzo di fuoco. La gente chiamò Gene Wilder dicendo se c'era uno spazio per Feldman, e fu lui ad avere l'intuizione di metterlo in Frankenstein Junior e di scegliergli il ruolo che lo farà diventare iconico. Lì in mezzo c'è anche la sua penna, oltre che la sua faccia. Ricordo l'episodio con Woody Allen, insomma, fa male, faceva già male quella maledetta la maledetta malattia, il morbo d'Alzheimer, che l'aveva tolto sostanzialmente dalle scene. Fa ancora più male sapere che quel viso non sorriderà più in pubblico, ecco. Non è un bell'anno, diciamoci. No, beh, diciamo che esattamente c'è stata un'infilata di grandi, grandissimi del cinema che ci hanno lasciato. Ricordiamo anche La signora in rosso, che è un film leggerino, ma che insomma per molti è un'altra delle icone del cinema con Gene Wilder. Beh, forse lì anche soprattutto con Kelly LeBrock. Allora, il cinema va avanti però, e questa settimana va davvero avanti, perché c'è Venezia, ma ci sono anche tanti film, anche molto importanti in sala. Ce n'è uno da cui vogliamo cominciare con questa trasmissione, che ravviva un pochino il genere melò giovanile, che è un genere che sta andando molto in queste ultime stagioni, con una vena forse anche di qualità superiore alla media di questo tipo di film. Stiamo parlando di Io prima di te, con Emilia Clarke e Sam Claflin. Sentiamo la clip. Io cerco solo di fare il mio lavoro meglio che posso, quindi sarebbe carino se non mi rendessi la vita un inferno, come sembra che tu faccia con quella di tutti gli altri. E se ti dicessi che non ti voglio qui? Non mi hai assunta tu, sono una dipendente di tua madre, quindi a meno che lei non mi dica che non mi vuole più qui, io resto. Non perché ci tenga a te o perché mi diverta particolarmente in tua compagnia, ma perché mi servono i soldi. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that that I know. È tutto un film di novità, se vogliamo anche questo, perché c'è una nuova star come Emilia Clarke, una nuova star al maschile, ormai super lanciata come Sam Coughlin, della musica che piace agli adolescenti di oggi. Stiamo sentendo sullo sfondo Ed Sheeran con Photograph. Insomma, si costruisce con questo Io prima di te un mondo che qualcuno ha detto parte un po' dal presupposto di Quasi amici, la storia di una ragazza del proletariato inglese che va ad accettare una sfida, quella di fare la badante a un giovane rampollo rimasto sulla sedia a rotelle per tutta la vita, e questa la diagnosi sicura, che è un ragazzo molto bello e molto ricco ma anche molto intrattabile. Le ha praticamente cacciate via tutte prima di lei, quelle le ragazze che sono arrivate a cercare di tenerlo un po' a bada, di fargli compagnia, ma fra questi due succederà qualcosa, un po' come è vero succedeva anche in Quasi amici. Ma qui c'è tutto un sottofondo diverso, che nel cinema melò di solito andrebbe in una certa direzione. Qui si piange, perché ho visto quintalate di fazzoletti in sala, però anche con tematiche molto molto importanti sullo sfondo, per esempio quella dell'eutanasia, che è il tema poi che domina un pochino dall'alto questo film. Boris, Io prima di te ha tutte le carte in regola per diventare un blockbuster di una generazione. Sì, sono d'accordo, anche se è tutto troppo perfettino, cioè rischia di crollare sotto il peso del cercare di far quadrare tutto. Sono veramente d'accordo con l'analisi che hai fatto e trovo che non ci sia nulla fuori posto, però forse in questi film qualcosa fuori posto dovrebbe esserci. Invece The Sherlock mi sembra che tenti di trattare il film e i temi pesantissimi che ha al suo interno, nonostante sia un melodramma sentimentale a tutti gli effetti, come se fosse un'equazione. Per carità, io sono felicissimo da amante totale di Game of Thrones di vedere Emilia Clarke in una versione completamente diversa e anche efficace. È bravo pure Claflin, tutto è fatto bene, anche la regia è ordinata, è intelligente, tiene i ritmi. Il problema secondo me è che, come anche in Quasi amici, questo che potremmo chiamarlo Quasi amanti, mi stupisce che non l'abbiano pensata, si perde secondo me quando tira giù in questa mano di poker il colpo di scena, che non diremo, ma che è un colpo di scena che mette in campo molte cose interessanti, molte riflessioni interessanti, e lì si sceglie di portare avanti con l'efficacia e le lacrime che provoca invece l'aspetto del melò e non il tentativo di andare un pochino più a fondo. Voglio stare a Parigi, essendo me, il vecchio me, con le ragazze francesi che mi fanno l'occhiolino. Potrebbe essere un obiettivo. Se chiudo gli occhi adesso, so esattamente che effetto fa trovarsi in quella piazzetta. Mi ricordo ogni sensazione. Non le voglio cancellare con la lotta per riuscire a stare seduto al tavolino. O con i tassisti che si rifiutano di prendermi e l'alimentatore della sedia a rotelle che non ha la spina francese. E questo era Io prima di te, il film da cui abbiamo cominciato questa nostra rosa purpurea. Ce ne aspettano parecchi. Fra poco, dopo la viabilità, parleremo dell'effetto acquatico e di uno dei film più attesi di questo inizio di stagione, La famiglia Fang. La rosa purpurea. Prosegue la rosa purpurea con le novità in sala di questo fine settimana, che abbiamo detto bello pregno, bello denso di novità cinematografiche importanti. Soffermiamoci su questo film dal titolo molto originale, L'effetto acquatico. I distributori italiani hanno deciso di aggiungere una seconda parte del titolo piuttosto lunga, Un colpo di fulmine a prima svista. Il film è diretto da Solveig Anspach, si svolge a Montreuil, un gruista, un guidatore di gru. C'era stato qualche anno fa un film che raccontava la vita di appunto un guidatore di gru, che perde la testa per una istruttrice di nuoto, e proprio nell'acqua finalmente troverà forse se stesso. Sei tu Samir? Sì. Non so perché ci hanno messo insieme. Non stavi con Corinne, la bionda, quell'alta? Non saprei. C'è un casino col programma, chissà che gli ha preso Daniel. È la tua prima lezione? Sì, Cioè, no, la seconda. La cuffia non ti serve, non andiamo in acqua subito, vieni. Distendi in avanti, allarga sui lati, unisci le mani come per pregare un dio, a tua scelta. Distendi in avanti, allarga sui lati, così, bene, movimenti fluidi. Sei molto coraggioso a cominciare alla tua età, non è mica facile. La lezione di nuoto, che è un po' una metafora della vita, bisogna essere coraggiosi, bisogna avere movimenti fluidi, bisogna abbandonarsi all'acqua. Boris, il valore simbolico e metaforico di questo titolo, dell'effetto acquatico, è tutto rispecchiato in questo film. Che ruolo ha, diciamo, proprio questo titolo nel rappresentare il film? Ma è un ruolo molto forte, perché l'effetto acquatico è anche quello che puoi provare nella vita nel momento in cui magari ti ritrovi in un contesto particolarissimo ambientale come l'Islanda, in cui una storia d'amore nasce in una piscina e nasce magari su qualche bugia innocente come quella del protagonista maschile che decide di fingere di non saper nuotare per conquistare la sua bella. C'è un valore simbolico anche nel vederlo questo film, perché Solveig Anspach è morta durante il montaggio per un tumore che si portava avanti da un po' di tempo, è stata conclusa, il film è stato chiuso dal montatore, e purtroppo si vede perché ci sono delle rigidità che all'inizio non sembrano esserci. È un testamento morale e cinematografico, però allo stesso tempo anche forse l'ultimo inno alla vita di una persona che la sta abbandonando, perché qui ci ritroviamo di fronte alla voglia di raccontare l'amore in maniera anche spensierata, in maniera giocosa, in maniera anche piuttosto improbabile, con due attori, devo dire, di cui non mi periterò di ripetere i nomi rischiando di sbagliare ogni tipo di pronuncia, ma che hanno un'alchimia tra di loro molto particolare, perché più che un'alchimia erotica è un'alchimia ludica, la capacità di parlarsi con i propri corpi nelle situazioni più improbabili. Penso per esempio a quando lui deve imparare facendo degli esercizi che fanno solo i bambini, e quel corpo enorme ovviamente risulta ridicolo, grottesco, e lui riesce a farlo con un'eleganza particolare. Lo stesso vale per il fisico nervoso di lei, che riesce a rendere elegante, fanciullesco. Ecco, è davvero affascinante, è impossibile staccare la vita dal cinema per l'effetto acquatico, proprio perché forse, e questo vale anche per il film di Thea Sharrock di cui abbiamo già parlato, forse non c'è un momento in cui sei più vitale, in cui guardi in faccia la morte o guardi in faccia la difficoltà di vivere. È proprio quello il momento in cui sei interrogato dalla tua esistenza e rispondi nella maniera più sorprendente. Non credo che l'effetto acquatico entrerà nella storia del cinema, ma è un'ottima commedia, è una commedia che sa commuoverti e che ha dei momenti esilaranti. Penso solo a quando lui, nell'ennesima piccola bugia, si ritrova ad essere scambiato per un delegato israeliano a un convegno e si inventa lì per lì la costruzione di una piscina che coinvolga israeliani e palestinesi, con ovvie conseguenze abbastanza buffe. E c'è la capacità di fare del cinema per il gioco, per la voglia di fare cinema, per il divertimento di fare cinema, e non c'è cosa più bella da parte di una regista forse che lasciare ai suoi spettatori il messaggio che fare arte, fare cinema è innanzitutto divertente. E allora anche l'effetto acquatico, quindi agli archivi della nostra recensione, è arrivato il momento di giocare insieme, è arrivato il momento di provare ad indovinare il film misterioso ascoltando questa traccia. So che significa essere minacciati, vedere gli altri troppo forti e sentirsi piccoli e impotenti, ma voi non lo siete. Facendo questo glielo dimostreremo, glielo prometto. Si fidi, vi proteggeremo. E allora, di chi sono queste parole e soprattutto a quale film appartengono? Una donna che parla di minacce, di protezioni. Se avete già indovinato di che film si tratta, scriveteci alla rosapurpurea@radio24.it con il titolo del film e il vostro indirizzo. Se non avete ancora indovinato, provate a farlo fra poco quando vi faremo ascoltare un'altra traccia. È arrivato il momento di fare conoscenza con la famiglia Fang, protagonista di un'altra delle pellicole più importanti di questo periodo, di questo inizio di stagione, al cinema. L'auto intestata ai vostri genitori è stata ritrovata in un'area di sosta sulla statale al confine col Massachusetts. Non erano nell'auto, ma c'erano purtroppo segni di lotta e molte tracce di sangue. Abbiamo controllato le telecamere e interrogato chi lavora lì intorno, ma non siamo riusciti a trovare alcun elemento risolutivo. Tutto lascia pensare che i vostri genitori siano scomparsi e che possa trattarsi di un omicidio. Mi scusi, sceriffo, questo non sono scomparsi. Sono artisti, è solo una performance. Conosciamo le loro opere d'arte. Oddio. Ma il fatto è che sono scomparsi dall'auto che guidavano e c'è sangue dappertutto. E allora, si pone sicuramente come un thriller, almeno ad ascoltare questa prima clip. La famiglia Fang, diretto da Jason Bateman, arrivato con questo al suo secondo film da regista dopo l'esordio con Bad Words, ma soprattutto Jason Bateman, conosciuto come attore, come volto di tanti film piuttosto celebri in Italia. Pensiamo per esempio a Come ammazzare il capo e vivere felici, pensiamo a Regali da uno sconosciuto, The Gift, oppure andando ancora indietro un film come Disconnect. È un volto molto molto utilizzato con quella sua normalità, quello di Jason Bateman, che però è una normalità irriverente, se mi permettete il paradosso. Ebbene, da regista prova ancora una volta a fare una cosa molto strana, perché davvero questo film ha una storia, un plot molto molto originale. La storia di due performer, come avete sentito, due artisti che con le loro performance live scioccano letteralmente il pubblico. Un giorno i loro, diciamo, con queste esperienze, i due attori, che tra l'altro sono lo stesso Jason Bateman e Nicole Kidman nel film, a distanza tornano a casa dai loro genitori e un giorno improvvisamente scompaiono nel nulla. Che cos'è? Un rapimento? Un omicidio? L'ennesima performance di due che hanno sempre voluto prendere un po' per il naso il pubblico? Ecco, questo è un po' il non detto del film, che anima e alimenta un pochino anche la trama. Boris, si è buttato in una performance, fammi dire, in questo caso davvero particolare, Jason Bateman. Decisamente un film, è difficile poter dire, soprattutto in un cinema molto standardizzato come quello attuale, per un film con un cast del genere usare l'aggettivo sorprendente, e quando dico sorprendente forse intendo ancora di più spiazzante, perché questo è un film che riflette innanzitutto sull'arte e su quanto una vita dedicata all'arte possa diventare ossessiva e possa diventare qualcosa di cui rimanere schiavi e anche vittime. Insomma, non è facile, secondo me, per un artista costruire un film così, soprattutto se la volontà è quella di fare cinema nella vita, nel cinema. So che sembra un gioco di parole improbabile, ma è proprio quello che troviamo, perché questa famiglia, che ha qualcosa di Wes Anderson, qualcosa però anche dell'irriverenza e della follia dei Coen, è una famiglia che ha deciso di costruire la propria esistenza familiare e di coppia come un continuo flash mob, come una continua installazione viva. E questo fa sì che negli anni 70 loro crescano due figli, non come figli ma come artisti, come elementi di questa installazione, con un egoismo, un egocentrismo che lo fanno quasi sembrare un horror emotivo, perché ti rendi conto che non si fermano davanti a nulla, e nonostante questo ti stanno simpatici perché sono anche bravi, e non si sa se sono più talentuosi o più cialtroni, e anche su questo c'è l'eleganza di questo film, della famiglia Fang, nel non prendere mai una posizione neanche nel giudizio estetico di ciò che fanno queste persone. Poi alla fine diventa un thriller perché inevitabilmente questi due figli, che sono fuggiti da dei genitori così pazzi che potevano rovinarli e che in fondo l'hanno rovinati, lei è un'attrice che ha avuto fama e adesso vive solo sui tabloid, lui è uno scrittore che già a ridosso della terza opera ha perso l'ispirazione, probabilmente vampirizzati da questi stessi genitori, loro ne sono fuggiti, non ne vogliono sapere più, e che cosa succede? Quello che abbiamo sentito nel trailer. Quello che abbiamo sentito nel trailer cos'è? Lo dice anche la figlia, è l'ultima grande idea artistica dei loro genitori oppure veramente un dramma? Giocare su questo equivoco è la forza di questo film, un film a mio parere interessantissimo, che ti prende e non ti lascia fino alla fine, perché come abbiamo detto ha tutti questi generi messi insieme e anche lì ti chiedi se è stato fatto con talento o con cialtroneria, però la verità è che cattura la tua attenzione e a questo bisogna aggiungere un cast pazzesco. E allora merita la famiglia Fang, adesso linea alla regia, fra poco torniamo, ci aspetta il cinema di grande qualità e sempre di grandissima tensione drammatica di Christian Mungiu, Un padre, una figlia, il titolo del film, il titolo italiano del film che arriva, e poi dedichiamoci a Jason Bourne, che è sicuramente la pellicola che, come dire, scuoterà le classifiche in questo fine settimana, fra poco. Verona-Torino, trasferta d'affari, io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare, il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in digital. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora, La Rosa Purpurea, proseguiamo in questa carrellata di film di questa settimana, perché arriva in sala anche un film rumeno, ormai rumeno ma di produzione ormai europea, perché Christian Mungiu, il regista, è ormai uno dei registi da seguire, insomma, nel panorama del cinema d'autore internazionale ed europeo in particolare. Il film si intitola in originale Baccalaureat, praticamente la maturità. Ed è racconta proprio la maturità di una ragazza, una figlia, Elisa, che se farà la maturità come si deve in Romania, questo a Cluj, avrà la possibilità di andare in una prestigiosa università inglese dove è già stata accettata, è figlia di un medico, di un uomo che nel suo paese ha un potere reale e un potere anche economico sufficiente, ma bisogna che i voti siano veramente il massimo. E lì succedono un po' di cose. Sentiamo la clip. Le preparo il pranzo per domani a scuola. Vuoi che domani affronti anche l'esame? Si può fare diversamente? Non lo so, dopo quello che le è successo pensi che basti dare un colpo di spazzola? Magda, senza maturità non può partire, sei impazzita? No, è chiaro, però non si può nemmeno fare finta di niente, se è successo è successo. Certo, non può nemmeno mandare in malora tutto quello che ha fatto fino adesso per un incidente. Un incidente? Per te uno stupro è un incidente? Non l'ha stuprata, finiamola con questa storia, non è uno stupro. No, le ha preso la testa e l'ha spinta verso... Falla finita! Lei domani fa gli esami, non ci sono discussioni. Ecco, avete capito quello che è successo. Del resto è una cosa che succede subito e dalla quale il film un po' scaturisce. Cioè Elisa, il giorno prima di affrontare questa prova, che probabilmente, come dire, supererebbe in scioltezza, subisce un'aggressione a sfondo sessuale. Poi non si capisce bene se c'è stato o non c'è stato questo stupro, ma sicuramente questo è un fatto relativo, perché nel cinema di Christian Mungiu non conta tanto la gravità di quello che succede o la drammaticità in sé, ma contano le responsabilità, conta il segno che le cose lasciano, e questo è il centro del cinema di Christian Mungiu. Ebbene, per a quel punto assicurarsi, forse più per se stessi che non per la figlia, che questo esame vada bene, che la prospettiva di andare in Inghilterra a studiare psicologia e, come dire, di lasciare un paese che non ha provato ma non è riuscito a modernizzarsi secondo la visione del padre, ecco, appunto, questo padre ricorre un po' a tutti i mezzi. Noi ci fermiamo qui con il nostro racconto, ma per introdurre gli elementi, Boris, di un cinema, quello di Christian Mungiu, che riesce a tenere, secondo me, volendo fare così un riassunto, sempre un po' dozzinale se vuoi, però insomma per cercare di far capire ai nostri ascoltatori, riesce a tenere le tensioni addosso ai suoi attori, che riescono a tenere i fratelli Dardenne, per intenderci, pur avendo un respiro narrativo sicuramente più seguibile anche da un pubblico più vasto. Sì, da ben prima che vincesse la Palma d'Oro con 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni, Mungiu era davvero un poeta del, se lo vogliamo chiamare, del postcomunismo, cioè un uomo che è capace di raccontare vicende particolari di vita di uomini e donne, facendole immediatamente diventare qualcosa che era importante nella coscienza critica collettiva. La forza anche maggiore, come dici tu, rispetto ai Dardenne, sta proprio nel fatto che spesso nei Dardenne è evidente la volontà dichiarativa e politica, mentre in Mungiu ci arrivi quasi in maniera sorprendente. Che cos'è quel medico che è tornato per migliorare il proprio paese, scoprendo che forse non era così irreprensibile a livello familiare, quindi insomma nobile per la collettività ma non per il proprio cerchio emotivo, che cos'è se non lo stesso Mungiu, che si è sforzato, spesso deluso, di lavorare in quella Romania che si illudeva essere diversa nel momento in cui il comunismo è caduto. E Mungiu ha il coraggio di essere sincero nel suo cinema fino allo stremo, non fino all'estremo, proprio fino allo stremo, fino alla devastazione del personaggio e anche dello spettatore, ma non nel senso che lo annoia o lo appesantisce, nel senso che non gli risparmia nulla e non gli risparmia nemmeno un uomo con cui è impossibile non empatizzare, perché quest'uomo è comunque pieno di buona volontà, pieno di buone intenzioni, ama la figlia più di qualsiasi altra cosa. In fondo anche in questo rapporto complicato con la moglie c'è uno straccio di rispetto, anche se bagnato con la sopportazione e l'impossibilità di convivere se non per proteggere questa figlia per cui si vuole il meglio, questa figlia che si vuole mandare via, cioè lui questa maturità la vede per, come possibilità per non rifare lo stesso errore che ha fatto lui, cioè credere in un paese che non crede in te. Tutto questo c'è però in un film che ha un'agilità di racconto, una potenza emotiva e una fluidità narrativa che, come dicevi tu, è straordinaria, è molto superiore a tutta quella dei registi, tra virgolette, politici che noi conosciamo. Quindi davvero io Mungiu lo considero il film della settimana, questo Baccalaureat, che appunto è in Italia è un padre e una figlia, ha una profondità di analisi ed emozionale che raramente si vede se non proprio nei film di Mungiu. Baccalaureat, un padre e una figlia nei cinema italiani, e invece qui da noi alla Rosa Purpurea la seconda traccia del film misterioso. Sapevo che si trattava di una materia esplosiva in un modo o nell'altro e sapevo che potenzialmente sarebbe stato più un danno per me professionalmente che un reale vantaggio. Sì, lo sapevo questo. E allora, vi ricordo ancora come partecipare al nostro gioco. Se avete indovinato di che film si tratta, scriveteci una mail alla rosapurpurea@radio24.it con il titolo del film, il vostro indirizzo. Fra poco vi diremo di che film si tratta, ma la settimana prossima vi diremo chi ha vinto. È arrivato il momento di buttarsi un po' nel ritmo frenetico di Jason Bourne. Hanno violato il sistema. Forse è peggio di Snowden. Abbiamo il riconoscimento facciale. Cristo santo, è Jason Bourne. Perché è tornato? Ha visto molto. Sa molto. Se non stesse venendo per noi, se fosse per qualcos'altro... Dovevano trovare dei nuovi interrogativi gli sceneggiatori di Jason Bourne, e li hanno trovati in questa saga che ha segnato a fuoco il cinema d'azione americano di questo primo scorcio del nuovo millennio. Jason Bourne, ennesimo capitolo, quarto capitolo se non ricordo male, della saga cominciata con The Bourne Identity, con il ritorno, il grande ritorno di Matt Damon nel ruolo del protagonista dopo un'incursione di Jeremy Renners in The Bourne Legacy. La storia, cosa poteva mancare? Avevamo scoperto un uomo che non sapeva chi era, non sapeva quali erano state le sue origini, poi pian piano nei film successivi lo scopriva, capiva chi era. Stavolta però scopriamo che c'è un piccolo tassello che mancava, e che questo tassello è che Jason Bourne potrebbe essere utilizzato praticamente per rivoltare da una parte o dall'altra, a seconda dei desideri delle superpotenze, il terrorismo internazionale. E quindi diventa obiettivo, ma anche guardiano per cercare di sconfiggerlo, quell'obiettivo. E adesso Boris Sollazzo ci dice com'è andata questa incursione, però sicuramente è un titolo che può far battere il cuore molto forte, ha chiamato questa saga, Boris. Qui il macro argomento, come spesso succede nei film di Greengrass e come spesso succede in Bourne, è qualcosa di universale, è qualcosa che riguarda il mondo, la sua sicurezza, e parliamo del diritto alla privacy, uno degli antagonisti, anche se compare poco, ma una sorta di convitato di pietra, è una specie di Zuckerberg che è stato aiutato dall'FBI per creare il suo antistato digitale e che ora ha un potere straordinario nelle sue mani e ne avverte anche la responsabilità. Non parleremo di lui perché su di lui forse verte tutta la parte del colpo di scena principale. Parleremo del fatto che Matt Damon è in una forma straordinaria, sia fisica, e infatti ha detto che Bourne esisterà finché lui sarà in forma, e quindi immaginiamo un'altra decina di film almeno, e anche in un Greengrass che torna forse a un Bourne più politico, si perde quello di Lehman che era quello forse visivamente più interessante, perché aveva un ritmo che era sempre quello sbagliato, però proprio per quello aveva sulla costruzione dell'imperfezione, a differenza di quasi tutte le spy story, la sua grande capacità di affascinare il pubblico. Bourne è sempre sul filo di essere un antieroe, abbastanza cinico da affascinare, ma abbastanza sentimentale da intenerire. È uno che porta una sfortuna nera, perché più o meno se ti avvicini a lui prima o poi morirai, è peggio della signora in giallo. È uno che però ha una fortuna straordinaria, perché possono sparargli in quattro e lui non si ferirà neanche. Qui c'è una Alicia Vikander notevole, che gioca al doppio gioco, scusate il gioco di parole che sono tre, molto bene, ed è forse l'unica all'altezza di Matt Damon. C'è qualcosa che forse però non convince, nel senso che Jason Bourne è a un punto di svolta, è un personaggio che in fondo ha scoperto più di quello che noi concederemmo a quel ruolo, a quell'icona che si fondava sull'inconsapevolezza e su un'istintiva capacità di parlare lingue, picchiare gente e via dicendo. Ora è un personaggio più consapevole, e quell'effetto sorpresa che c'era sul personaggio e sullo spettatore un po' inevitabilmente si è persa, e anche tutta quella imperfezione perfettamente e produttivamente ricostruita perde forse un po' di fascino. Detto questo, raramente, e va detto, ho visto una saga resistere così a lungo e rimanere così spettacolare, perché appunto, come dicevi tu, sono quattro i Bourne di Matt Damon, ma c'è stato anche quello di Jeremy Renner, e così capaci di mantenersi vitale. Certo, il rischio che si crei una saga di mestiere è inevitabile, ma d'altronde, insomma, adesso che siamo abituati alle serie TV, possiamo viverla così, come una lunga serie TV molto molto ben fatta. Io so chi sono. Quando avremo finito, non sarai più te stesso. Ricordo tutto. Ricordare tutto non vuol dire sapere tutto. Non troverai nessuna pace se non dirai a te stesso chi sei veramente. E allora, questo era Jason Bourne. State con noi, perché dopo la viabilità, da Venezia, Boris Sollazzo comincia a raccontarci le prime cose che si sono viste al Lido nella 73esima mostra del cinema. La Rosa Purpurea. E Eccoci qua, quarta parte della Rosa Purpurea, fra poco tutto il cinema da vedere in casa, torniamo con gli amici di Film TV a dare anche un'occhiata ai palinsesti televisivi, a recensire il game della scorsa settimana, a scoprirne i vincitori. Ma prima Venezia, Boris Sollazzo ci ha parlato dal Lido dei film che escono in sala in tutta Italia, però insomma il festival è cominciato, ancora pochi giorni, pochi film, qualcosa però si è cominciato a vedere, Boris, a cominciare a iniziare da questo La La Land che ha aperto il festival, che mi interessa tantissimo per due motivi. Uno, perché il regista è Damien Chazelle e aveva diretto un film che si intitola Whiplash, che era un autentico piccolo gioiello di qualche anno fa, visto al Festival di Torino, straordinario film che poi è andato anche alla notte degli Oscar. Seconda cosa, perché è un musical e a me i musical piacciono davvero tanto ed è un grande omaggio al musical americano dei bei tempi, insomma. Emma Stone, Ryan Gosling, ballanti e cantanti, com'è andata? Beh, è andata bene, c'è un grande entusiasmo qui al Lido per il film di Chazelle, probabilmente dipende anche dal fatto che il festival porta con sé un lungo carico di film d'autore che magari non fanno del ritmo e dell'entusiasmo la propria caratteristica. La La Land invece ha due pregi: uno, di avere due divi amatissimi in questo momento, che sono Emma Stone, anche ieri bellissima nel suo red carpet, e Ryan Gosling, che ormai è un'icona, lo aiuta anche il fatto di non cambiare mai espressione, che faccia un western metropolitano o che faccia un musical. E c'è poi qualcosa che è estremamente classico ed estremamente bello per il pubblico, e credo che questo anche abbia contribuito a far sì che gli addetti ai lavori si siano un po' abbandonati alla visione piuttosto che all'essere critici tout court, perché è il più classico dei musical di formazione, dei musical dedicati all'inseguimento dei propri sogni, intrisi di ottimismo e ovviamente di ottima musica. È un film, diciamo, che può andare col pilota automatico sia per il talento degli attori sia per l'efficacia della colonna sonora, e a mio parere molto del successo che sta avendo al Lido nasce anche dal fatto che non ci si aspettava di divertirsi così tanto all'apertura di un festival di Venezia, anche se va detto che negli ultimi anni, insomma, hanno aperto spesso film che hanno intrattenuto oltre che affascinato, e questo bisogna valutarlo. City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Boris, non ha sicuramente invece così avuto tutto questo plauso unanime il film che è passato di Gabriele Muccino, L'estate addosso, un film che racconta un'estate particolare per due ragazzi italiani che vanno in America, in California, vanno a stare ospiti di una coppia omosessuale, di due ragazzi molto giovani e molto, molto estroversi. Quest'estate li cambierà forse anche il loro modo di sentire la sessualità. Ci sono cose che funzionano, altre che funzionano un po' meno. Sicuramente lì a Venezia, come dire, non c'è stato tutto lo stesso appoggio che c'è stato per il film d'apertura. Beh, sicuramente no. L'estate addosso ha un Muccino che cerca il racconto del teen movie, del dramma adolescenziale, del momento di cambiamento, ed è un Muccino però che inevitabilmente ha parecchi più anni di quando lo faceva con grande efficacia nei suoi primi film. Fai fatica a ritrovare nell'estate addosso la sincerità, la sfrontatezza, anche la spregiudicatezza che trovavi sostanzialmente fino all'ultimo bacio, e neanche l'ambizione di costruire un racconto su una civiltà, su una visione, su un American Dream, un Italian Nightmare che c'era per esempio nella Ricerca della felicità. L'aveva messo anche Gabriele Muccino, che nella sua seconda parte dell'avventura americana era entrato abbastanza in crisi, e credo che l'estate addosso confermi che questa crisi è un po' lontana dall'essere superata, che lui stia cercando, insomma, con film che vanno sul sicuro di superarla. Solo che secondo me, mentre con Padri e figlie si era rifugiato nel cinema classico americano e in una grammatica cinematografica che lui conosce bene, qui era, è stato anche abbastanza sgrammaticato, quindi si intravedono ogni tanto le sue visioni, che sono particolari e sono tecnicamente straordinarie, e lui è bravissimo, però inquadrate, ingabbiate invece da una serie di stereotipi che lui si divertiva a raccontare, per poi demolire, che qui invece inquadra in una pedagogia cinematografica abbastanza improbabile, e soprattutto sembra non conoscere più certe realtà. Quei due diciottenni non esistono nella realtà, non esiste quella bigotta che aspetta solo di esplodere nella vivacità, non esiste quel tipo di sfigato, non esiste neanche la coppia gay di San Francisco, una San Francisco in cui gli eterosessuali sembrano banditi. Secondo me deve ritrovare un po' l'ispirazione e la voglia di andare contro invece che sentirsi dentro, ecco. Maria, avevo detto che saremmo andati ognuno per la propria strada. Cioè, non posso credere che mi stai mollando qua. Quando smetti di contarli, i giorni iniziano a volare. Io vi voglio veramente bene. Tutto era così perfettamente imperfetto. E quei pochi centimetri di imperfezione erano la cosa che ci faceva sentire completi e felici. Perfetto, Boris. Allora, grazie. Buon lavoro a Venezia. Noi ci risentiamo la prossima settimana. Saranno successe un bel po' di cose lì al Lido. Ci sentiamo fra 7 giorni. Alla prossima settimana, buon cinema. E allora, dopo tutta l'attualità cinematografica in questa densa settimana sul grande schermo, ritroviamo gli amici di Film TV, ritroviamo il settimanale di cinema e di cinema in televisione, che come sempre racconta a tutti i suoi lettori e racconta anche agli amici della Rosa Purpurea le cose più belle da vedere sul piccolo schermo. E Giulio San Giorgio è già con noi. Ciao Giulio. Ciao Franco, un ben ritrovati agli ascoltatori di Radio 24, ci siete mancati qui in redazione. Siete mancati anche voi, ma vi abbiamo fatto fare le meritate ferie e adesso siete qui anche voi in pieno turbine veneziano, però cominciamo subito con il risolvere il gioco della settimana scorsa. Tu hai detto che sei qualcosa di intermedio tra questo mondo e lo specchio. Ti ho riportato io qui. Ora sei avvinta a me! E allora, si trattava di Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio. Era questo il game con il quale abbiamo riaperto la grande stagione dei DVD game di Radio 24 e della Rosa Purpurea. Ebbene, hanno indovinato per primi Emanuele Iengo di Casoria, provincia di Napoli, e Anna Guidobaldi di Bagnoregio, provincia di Viterbo. Sono loro i nostri vincitori del Cacciatore e la Regina di Ghiaccio, uscito in tutte le versioni un video possibile e immaginabili. Giulio, con quali risultati? Raccontaci un po' questa uscita. Sì, in parte si tratta di un prequel, un antefatto, ma è anche un seguito, e forse più propriamente quello che viene chiamato uno spin-off, di Biancaneve e il Cacciatore. Anche se poi per la maggior parte del film sembra di avere di fronte un rifacimento di Frozen. In ogni caso, Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio fa parte di una rivisitazione delle fiabe Disney in chiave darkeggiante, con ottimi effetti speciali e cast di livello. Qui abbiamo Emily Blunt, Chris Hemsworth e Charlize Theron, ed è proprio il lato divistico la cosa maggiormente interessante di questo film. Il Blu-ray è ottimo, come spesso accade con produzioni di tale livello, ed è veramente una fucina di extra. Abbiamo la versione estesa, errori, speciali, dietro le quinte, scene cancellate con commento e il commento audio al film. E allora, questo era il game della scorsa settimana. Giulio, concentriamoci invece sui palinsesti della prossima per raccontare intanto un film, un passaggio notturno su Rai 3 che però ci lega al presente Festival di Venezia, cioè L'Infinita Fabbrica del Duomo di Massimo D'Anolfi e Martina Parenti, domenica 4 settembre alle 2:25 di notte su Rai 3. Sì, cos'è questo documentario girato da quelli che personalmente, poi non sono franco, considero i massimi documentaristi italiani? Allora, prima di tutto è un documentario storico che con una serie di didascalie racconta la storia del Duomo di Milano. In secondo luogo è un documentario industriale, che quello che un tempo veniva chiamato con un nome strano, un tecnofilm, ovvero un film che riprende e registra il lavoro di continuo, esausto restauro attuato sulla cattedrale da quella che viene chiamata la veneranda fabbrica del Duomo. E per ultimo è anche un trattato filosofico, perché raccontandoci la storia della cattedrale di Milano e il suo perpetuo restauro, racconta proprio il rapporto tra l'uomo e il potere, tra il finito e l'infinito, il mortale e l'immortale, tra quello che è minuscolo, aleatorio e quello che è eterno. È veramente una sinfonia visiva audiovisiva potentissima, un'esperienza unica che è il frammento espunso, diciamo, ed espanso di un film che in questi giorni, come dicevi, è a Venezia, verrà presentato domani in concorso, che si chiama Spira Mirabilis. E allora, questo è il passaggio domenica 4 settembre, l'infinita fabbrica del Duomo su Rai 3 alle 2:25 di notte. Il 7 settembre, mercoledì, un film che invece mi sta molto a cuore, il film che ha rivelato la capacità registica di Thomas McCarthy nel 2007, si intitola L'ospite inatteso. Sì, un professore va a New York per una conferenza e scopre che il suo appartamento in città, che da tempo è disabitato, è stato occupato da una coppia di immigrati clandestini. Gli effetti collaterali però sono costruttivi. È un film questo che piacerebbe secondo me a Ken Loach, scritto e girato da un regista, quello che citavi tu, Tom McCarthy, che forse è un po' discontinuo, ma ha girato almeno un grandissimo film, che è il caso Spotlight. È un film misurato, questo, L'ospite inatteso, realista, volutamente dimesso, interpretato da un grandissimo Richard Jenkins, ed è un film che fa emergere l'umanità di chi è sgretolato dal sistema, ed è un film che veramente cerca di guardare gli occhi, di guardare con gli occhi di chi è straniero. E ricordiamo l'appuntamento allora mercoledì 7 settembre per L'ospite inatteso su Rai Movie alle 15:50. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima, salute a tutti. E siamo arrivati alla fine del nostro viaggio nel cinema questa settimana con La Rosa Purpurea. Appuntamento a sabato prossimo con tutto quello che sarà successo al Festival di Venezia durante questa settimana e con tutte le copiose novità in sala. Vi ricordo che il game con cui abbiamo giocato oggi è Truth, il prezzo della verità, i vincitori, fra 7 giorni. Un saluto da Franco D'Assisi.